Con Nadia Pizzuti, che è una delle curatrici dell'iniziativa nella quale sarà proiettato il film Fest of Duty, la festa del dovere di Firuze Khosrovani a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, il 18 ottobre. Nadia, ben trovata. Buongiorno. Ci racconti di questa giornata? Allora, proietteremo alla presenza della regista che arriva da Teheran questo documentario, appunto, come ha detto, si chiama Festa del Dovere. Cos'è la Festa del Dovere? È una cerimonia prevista, non obbligatoria, ma insomma, prevista in Iran per i ragazzini che compiono 9 anni. Perché in Iran a 9 anni si considera che una bambina sia matura, mentre per i ragazzi l'età della pubertà è di 14 anni, quindi c'è un'enorme differenza. Questa festa che si vede nel film, cioè la regista, partendo da questa festa, prendendo spunto da questa cerimonia, segue due cuginette che hanno appunto 9 anni inizialmente, e poi le riprende quando hanno intorno ai 17 anni. Quindi quando poi cominciano a fare delle scelte, no? E si vede la differenza, il differente impatto di questo indottrinamento religioso su di loro. Quindi se loro appartengono a due famiglie, perché sono una famiglia unica, ma sono molto diverse, una più laica, diremmo noi, e l'altra più osservante, anzi, strettamente osservante. E quindi si vede che pian piano queste ragazze fanno delle scelte, per fare un esempio concreto, davanti alla macchina da presa, una delle due che si chiama Mariam, che già è un nome biblico, quindi religioso, si mette il velo e così fanno anche sua madre e suo fratello, mentre l'altra che si chiama America, quindi un nome non religioso, con la madre e le sorelle non portano il velo, e questo già è significativo, no? E quindi quello che è molto importante, che è interessante in questo film è appunto vedere come l'impatto dell'indottrinamento in Iran può essere molto diverso, e non solo, molti appunto anche le contraddizioni, no? La complessità della società iraniana che nonostante gli arretramenti dell'epoca di Ahmadinejad, ha una società che continua a evolvere, no? E poi è molto interessante perché c'è un punto di crisi, che adesso non voglio svelare, nel documentario in cui anche la ragazza più indottrinata, più religiosa, ha una crisi dei pensamenti, cioè, e mostra anche come la sua famiglia, che pure è patriarcale, tradizionalista, no, è anche moderna per certi aspetti. Ecco, questa poi è molto una particolarità della società iraniana, non c'è mai l'oscurantismo totale. Ecco. Continua a mantenere una stringente attualità? Fino al 2014. Le prime riprese sono state fatte ovviamente nel 2005 perché le ragazzine, no, erano collocate lì. Dopo però la parte, diciamo, contemporanea è stata fatta 4 anni fa, infatti poi questo documentario è stato presentato in vari festival, tra cui quello di Milano, Sguardo Altrove, no? Che è il Festival del Cinema delle Donne, e ha avuto una menzione speciale. Quindi 2014, certo, più o meno ci siamo, ecco. Anche nel 2005, ora naturalmente è una società che mantiene questi lati tradizionalisti da una parte, poi appunto lì si vedono i comportamenti, la ragazzina America, no, che sogna l'Occidente, dice vabbè c'è più libertà, però poi dice forse quasi quasi potrei anche rimanere qua, voglio fare l'attrice, ma insomma non è, appunto, questo anche per mostrare che non è una società totalmente chiusa come a volte la si vuole rappresentare, no, quella iraniana, perché spesso ci sono dei luoghi comuni, quindi lo scopo di questa proiezione, come anche altri film che abbiamo proiettato, no, a Casa delle Donne nell'ambito di una rassegna sull'isola, quello di mostrare appunto le contraddizioni, non, no, non una società ferma, immobile, come non è immobile il regime iraniano, non c'è questa immutabilità del potere, no? Cioè sono sempre delle crepe questi regimi. Come avete pensato poi il dibattito, l'incontro? Guarda, lei è una persona che parla benissimo italiano perché ha vissuto, Firuze Khosrovani ha vissuto in Italia, ha fatto l'Accademia di Belle Arti di Brera, e quindi potrà agevolmente rispondere alle domande. Ci sarà un dialogo iniziale, insomma, diciamo, daremo qualche spunto, parleremo con lei, io che sono stata anche corrispondente dell'agenzia ANSA Teheran, e Leyla Karami, che è un'iraniana, che è una studiosa dell'Islam, in particolare delle donne in contesti musulmani. Quindi noi naturalmente faremo delle domande, dialogheremo con Firuze, ma vorremmo, siccome è un film ricchissimo di spunti, penso che il pubblico sarà molto curioso e farà delle domande, quindi andremo un po' così all'impronta. Sì. Bene, allora, visto che c'è l'evento Facebook come riferimento, ci sono altre indicazioni web? No, l'indicazione, no, guarda, c'è un evento Facebook, no, certo, noi penso che c'è un sito, se uno vuol vedere Firuze Khosrovani, niente, si svolgerà alle 20 nella sala quella grande, al primo piano, e no, insomma, naturalmente poi parleremo anche, se riusciamo, del documentario iraniano in generale, del cinema, se sì, possiamo anche allargare domani a seconda del pubblico, no? Sì. Perché c'è una scuola del documentario molto importante, insomma, in Iran. Allora, ricordiamo la proiezione del documentario Fest of Duty, la festa del dovere, di Firuzeh Khosrovani, che sarà presente all'incontro a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, 18 ottobre. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Nadia Pizzuti. Nadia, un saluto, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.